Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Addio alle armi di Ernest Hemingway. Traduzione di Fernanda Pivano. Quando mi svegliai dopo l'operazione non me ne ero andato. Non si va via. Si limitano a soffocarvi. Non è come morire. È soltanto un soffocamento chimico per non far sentire. E dopo si avrebbe potuto anche essere ubriachi, solo che quando si vomita non viene altro che bile. E poi non ci si sente meglio. Vidi i sacchetti di sabbia ai piedi del letto. Erano su assicelle che uscivano dall'ingessatura. Poi vidi la gage e disse: «Come va adesso?» «Meglio», dissi. «Le ha fatto un lavoro magnifico al ginocchio». «Quanto è durato?» 2 ore e mezzo». «Ho detto qualche stupidaggine». «Neanche una parola, lei non parla, sta zitto». Stavo male e Catherine aveva ragione. Non mi importò niente che fosse di turno la notte. C'erano altri 3 pazienti nell'ospedale adesso. Un ragazzo smilzo della Croce Rossa della Georgia con la malaria. Un ragazzo simpatico, anche lui smilzo di New York con la malaria e l'itterizia. È un ragazzo simpatico che aveva cercato di svitare la spoletta da un proiettile di shrapnel ad alto esplosivo, per tenerlo come ricordo. Era un proiettile di shrapnel usato dagli austriaci in montagna, con un detonatore che scattava dopo lo scoppio ed esplodeva per contatto. Catherine Berkeley era molto simpatica alle infermiere, perché era sempre disposta a fare il turno di notte. Aveva pochissimo da fare con la gente della malaria. Il ragazzo che aveva svitato l'innesco era nostro amico e non suonava mai la notte se non era necessario, e durante gli intervalli del lavoro stavamo insieme. L'amavo molto e lei mi amava. Dormivo di giorno e durante il giorno, quando eravamo svegli, ci scrivevamo dei biglietti e ce li mandavamo attraverso la Ferguson. La Ferguson era una ragazza simpatica. Non seppi mai niente di lei, tranne che aveva un fratello nella 52esima divisione e un fratello in Mesopotamia, e che era molto buona con Catherine. Così passò l'estate. Non ricordo molto di quei giorni, tranne che erano molto caldi e che c'erano molte vittorie sui giornali. Stavo molto bene e le gambe mi guarivano in fretta, tanto che non passò molto da quando andavo sulle stampelle e quando le lasciai e camminai appoggiandomi su un bastone. Poi incominciai le cure all'ospedale maggiore per articolare il ginocchio. Kinesiterapia, arrostendomi in una scatola di specchi coi raggi violetti. Ci andavo il pomeriggio e poi mi fermavo al caffè a bere e a leggere i giornali. Non andavo in giro per la città. Volevo tornare a casa in ospedale dal caffè. L'unica cosa che desideravo fare era vedere Catherine. Il resto del tempo mi accontentavo di ucciderla. Per lo più la mattina dormivo e al pomeriggio a volte andavo alle corse e più tardi alle applicazioni di kinesiterapia. A volte entravo al club angloamericano e sedevo in una poltrona foderata di cuoio davanti alla finestra a leggere le riviste. Non ci lasciarono uscire insieme quando smisi le stampelle, perché non stava bene che un'infermiera girasse sola con un paziente che non aveva evidente bisogno di assistenza. Così non stavamo molto insieme nel pomeriggio. Qualche volta potevamo andare a pranzo se la Ferguson veniva con noi. La Van Campen aveva accettato la versione della nostra grande amicizia perché Catherine le sbrigava moltissimo lavoro. Riteneva che Catherine provenisse da una ottima famiglia e questo pregiudizio aveva finito per fargliela considerare con favore. La Van Campen ammirava molto la famiglia e veniva lei stessa da una famiglia eccellente. Inoltre l'ospedale era molto affollato e questo la teneva occupata. Era un'estate calda e conoscevo molta gente a Milano, ma ero sempre ansioso di tornare a casa in ospedale appena il pomeriggio era finito. Al fronte avanzavano sul Carso. Avevano conquistato il monte Cucco di fronte a Plava e stavano conquistando la Bain Sizza. Il fronte occidentale non pareva andasse altrettanto bene. Pareva che la guerra dovesse continuare un pezzo. Ora eravamo in guerra, ma pensavo che ci volesse un anno per preparare un esercito numeroso e addestrarlo al combattimento. L'anno successivo sarebbe stata una cattiva annata, o forse una buona annata. Gli italiani stavano logorando una quantità terribile di uomini. Non vedevo come potesse continuare. Anche se prendevano la Bain Sizza e il Monte San Gabriele, c'erano moltissime montagne di là di questi per gli austriaci. Le avevo viste. Tutte le montagne più alte erano dall'altra parte. Sul Carso stavano avanzando, ma dalla parte del mare c'erano paludi e acquitrini. Napoleone avrebbe battuto gli austriaci sulle pianure, non li avrebbe mai combattuti sulle montagne. li avrebbe lasciati scendere e li avrebbe battuti intorno a Verona. Per il momento nessuno stava battendo qualcuno sul fronte occidentale. Forse le guerre non si vincevano più, forse continuavano sempre, forse era un'altra guerra dei 100 anni. Rimisi il giornale sulla rastrelliera e lasciai il club. Scesi guardingo i gradini e risalii via Manzoni. Davanti al Grand Hotel incontrai il vecchio Meyers con la moglie che scendevano da una carrozza. Ritornavano dalle corse. Era una donna dall'ampio seno, vestita di satin nero. Lui era basso e vecchio, coi baffi bianchi, e camminava coi piedi piatti appoggiati a un bastone. «Come va? Come va?» mi strinse la mano. «Hello!» disse Meyers. «Com'erano le corse?» «Belle! Erano proprio magnifiche. Avevo 3 vincenti. A te com'è andata?» chiesi a Meyers. «Bene, avevo un vincente». «Non so mai che cosa faccia», disse Mrs. Meyers. «Non me lo dice mai». «Non è vero», disse Meyers. «Era cordiale. Dovresti venire qualche volta». Mentre parlava si aveva l'impressione che non vi guardasse o che vi scambiasse per qualcun altro. «Verrò», dissi. «Passerò all'ospedale a trovarla», disse Mrs. Meyers. «Ho qualcosa per i miei ragazzi. Siete tutti i miei ragazzi. Siete certo tutti i miei cari ragazzi. Saranno lieti di vederla. Quei cari ragazzi. Anche lei. Lei è uno dei miei ragazzi. Devo tornare», dissi. «Mi saluti tutti quei cari ragazzi. Ho un mucchio di cose da portare. Ho del buon marsala e dolci. Arrivederci», dissi. «Saranno lietissimi di vederla». «Arrivederci», disse Meyers. «Vieni qualche volta in galleria. Sai dov'è il mio tavolo? Siamo lì tutti i pomeriggi». Risalii la strada. Volevo comprare qualcosa al cova da portare a Catherine. Dentro il cova comprai una scatola di cioccolatini e mentre la ragazza li incartava andai al bar. C'erano un paio di inglesi e qualche aviatore. Bevvi un martini liscio, lo pagai, presi la scatola di cioccolatini al banco e andai a casa a piedi in ospedale. Fuori del piccolo bar, nella strada della Scala, c'era qualcuno che conoscevo. Un viceconsole, 2 amici che studiavano canto e Ettore Moretti, un italiano di San Francisco che era nell'esercito italiano. Bevi qualcosa con loro. Uno dei 2 cantanti si chiamava Ralph Simmons e cantava sotto lo pseudonimo di Enrico Del Credo. Non ho mai saputo come cantasse, ma era sempre sul punto di qualche grande avvenimento. Era grasso e aveva il naso e la bocca vizi come se avesse la febbre del fieno. Era ritornato da un'esecuzione a Piacenza. Aveva cantato la Tosca ed era stato magnifico. «Naturalmente non mi hai mai sentito cantare», disse. «Quando canterai qui?» «Sarò alla Scala quest'anno». «Scommetto che ti tireranno i pomodori», disse Ettore. «Ti hanno raccontato di come gli hanno tirato i pomodori a Modena?» «È una bugia». «Gli hanno tirato i pomodori», disse Ettore. 2 sere ho visto 6 pomodori coi miei occhi. Non sei un wop di Frisco». «Non sa pronunciare l'italiano», disse Ettore. «Ovunque vada gli tirano dietro pomodori». «Piacenza è la piazza più dura da cantarci in Italia», disse l'altro tenore. «Credetemi che è una piazza proprio dura da cantarci». Il nome di questo tenore era Edgar Saunders e cantava sotto lo pseudonimo di Edoardo Giovanni. «Mi sarebbe piaciuto esserci per vederti tirare i pomodori», disse Ettore. «Non sai cantare in italiano». «È un fesso», disse Edgar Saunders. «Non sa parlare d'altro che di tirare pomodori». «È la sola cosa che facciano quando voi 2 cantate», disse Ettore. «Poi quando andate in America parlate dei vostri trionfi alla Scala. Non vi lascerebbero continuare dopo la prima nota alla Scala». «Io canterò alla Scala», disse Simmons. «Canterò la Tosca in ottobre». «Ci andremo, vero, Mac?» disse Ettore al viceconsole. «Avranno bisogno di qualcuno che li protegga». «Forse ci sarà l'esercito americano a proteggerli», disse il viceconsole. «Bevi ancora qualcosa, Simmons? Qualcosa, Saunders?» «Bene», disse Saunders. Scesi una strada secondaria che conduceva più in fretta all'ospedale. Ettore aveva 23 anni. Era stato allevato da uno zio a San Francisco ed era venuto a trovare il padre e la madre a Torino quando venne dichiarata la guerra. Aveva una sorella che era stata mandata in America con lui a vivere con lo zio e avrebbe preso il diploma della scuola normale quell'anno. Lui era l'eroe ufficiale che rompeva le scatole a tutti quelli che incontrava. Catherine non lo poteva soffrire. «Ne abbiamo anche noi di eroi», diceva. «Ma di solito, caro, sono molto più silenziosi. Io non gli bado. Non gli baderei neanch'io se non fosse così presuntuoso e non mi seccasse e seccasse e seccasse. Secca anche me. Sei caro a dirlo, ma non è necessario. Ti riesci a immaginare il fronte e sai che è utile, ma è talmente il tipo di ragazzo che non mi piace. Lo so. Sei tanto caro a saperlo, io cerco di trovarlo simpatico, ma è terribile, proprio terribile. Oggi ha detto che sta per diventare capitano. Ne sono lieta», disse Catherine. «Dovrebbe fargli piacere. Non ti piacerebbe che avessi un grado più alto?» «No, caro. Desidero solo che tu abbia un grado sufficiente per poter entrare nei ristoranti migliori. È esattamente il grado che ho. È un grado magnifico. Non voglio che tu abbia un grado superiore. Potrebbe darti alla testa, caro. Sono così contenta che tu non sia presuntuoso. Ti avrei sposato anche se eri presuntuoso. Ma è così riposante avere un marito che non è presuntuoso?» Parlavamo sottovoce fuori sul balcone. Doveva alzarsi la luna, ma c'era la nebbia sulla città e così non spuntava. E dopo un po' incominciò a piovigginare e rientrammo. Fuori la nebbia si trasformò in pioggia e poco dopo pioveva forte e udivamo tambureggiare sul tetto. Mi alzai e mi fermai accanto alla finestra per vedere se pioveva dentro, ma non pioveva dentro. Così lasciai la finestra aperta. «Che altro hai visto?» chiese Catherine. «I due Meyers. Sono strana gente. Dicono che lui è stato in un penitenziario in patria. L'hanno lasciato uscire perché potesse morire. E invece lui è vissuto a Milano felice e contento. Non so quanto felice e contento. Sempre abbastanza dopo la prigione, direi. Lei deve portare qui qualcosa. Porta cose splendide. Eri il suo caro ragazzo?» «Uno di loro. Siete tutti i suoi cari ragazzi», disse Catherine. «Preferisce i cari ragazzi. Senti la pioggia? Piove forte. E tu mi amerai sempre, vero?» «Sì. E la pioggia non cambierà niente?» «No, così va bene, perché ho paura della pioggia.» «Perché?» «Avevo sonno. Fuori la pioggia cadeva uniforme.» «Non lo so, caro, ho sempre avuto paura della pioggia. A me piace. A me piace camminarci sotto, ma è molto difficile per l'amore. Ti amerò sempre. Ti amerò nella pioggia, nella neve, nella grandine. E che cos'altro c'è?» «Non lo so, credo di avere sonno. Dormi, caro, e ti amerò comunque sia.» «Ma hai davvero paura della pioggia?» «Non quando sono con te.» «Perché ti fa paura?» «Non lo so, dimmi, non me lo fare dire, dimmi.» «No, dimmi.» «Bene, ho paura della pioggia perché a volte mi ci vedo dentro morta.» «No, e a volte ci vedo morto dentro te.» «Questo è più probabile.» «No, non è vero, caro, perché io ti salverò. So che posso farlo, ma nessuno può aiutare se stesso.» «Ti prego, smettila. Non voglio che tu diventi scozzese e matta stasera. Abbiamo così poco tempo da stare insieme.» «Sì, ma io sono scozzese e matta. Ma la smetterò. Sono tutte sciocchezze.» «Sì, sono tutte sciocchezze. Sono tutte sciocchezze, soltanto sciocchezze. Non ho paura della pioggia, non ho paura della pioggia. Oddio. Vorrei non avere paura della pioggia.» Stava piangendo. La confortai e smise di piangere. Ma fuori continuava a piovere. A settembre ci furono le prime notti fresche, poi rinfrescarono le giornate e le foglie sugli alberi incominciarono a cambiare colore e ci accorgemmo che l'estate era finita. Il combattimento sul fronte andava molto male e non si riusciva a conquistare il San Gabriele. Il combattimento sull'altopiano della Bainsizza era finito e verso la metà del mese anche il combattimento per il San Gabriele stava per finire. Non riuscivano a conquistarlo. Ettore era ritornato al fronte. I cavalli erano andati a Roma e non c'erano più corse. Anche Crowell era andato a Roma per venire rimandato in America. Vi furono due sommosse in città contro la guerra e una sommossa grave a Torino. Il maggiore inglese al club mi disse che gli italiani avevano perduto 150.000 uomini sull'altopiano della Bainsizza e sul San Gabriele. Disse che inoltre ne avevano perduti 40.000 sul Carso. Bevemmo qualcosa e lui continuò a parlare. Disse che qui il combattimento era finito per quell'anno e che gli italiani avevano fatto il passo più lungo della gamba. Disse che l'offensiva delle Fiandre volgeva al peggio. Se uccidevano gli uomini come stavano facendo quest'autunno, gli alleati sarebbero stati fritti entro un anno. Disse che erano tutti fritti, ma si sarebbe tirato avanti finché non lo si sapesse. Erano tutti fritti. Si trattava di non ammetterlo. L'ultimo paese a capire che erano fritti avrebbe vinto la guerra. Bevemmo di nuovo. Ero nello stato maggiore di qualcuno? No. Lui sì. Erano tutte balle. Eravamo soli nel club affondati in uno dei grandi sofà di cuoio. Aveva gli stivali di un cuoio opaco, liscio, ben pulito. Erano bei stivali. Diceva che erano tutte balle. Pensavano soltanto in divisioni e potenziale umano. Discutevano sulle divisioni e si limitavano a farle ammazzare quando le ottenevano. Erano tutti fritti. I tedeschi conseguivano vittorie. Per Dio, erano soldati. L'antico Unno era un soldato, ma erano fritti anche loro. Eravamo tutti fritti. Gli chiesi della Russia. Disse che erano già fritti. Mi sarei accorto presto che erano fritti. Poi anche gli austriaci erano fritti. Se ottenevano qualche divisione di Unni, ce l'avrebbero fatta. Pensava che avrebbero attaccato quest'autunno? Si capisce che avrebbero attaccato. Gli italiani erano fritti. Lo sapevano tutti che erano fritti. L'antico Unno sarebbe sceso attraverso il Trentino e avrebbe tagliato le comunicazioni a Vicenza. E allora cosa sarebbe successo agli italiani? Lo hanno già provato nel 16, dissi. Non coi tedeschi, sì, dissi. Ma probabilmente non l'avrebbero fatto, disse. Era troppo semplice. Avrebbero trovato qualcosa di complicato e sarebbero stati regalmente fritti. Dovevo andare, dissi. Dovevo ritornare in ospedale. Arrivederci, disse. Poi allegramente, tutti i migliori auguri. C'era un gran contrasto tra il suo pessimismo cosmico e la sua allegria personale. Mi fermai da un barbiere e mi feci radere e tornai in ospedale. La gamba andava bene come già da molto, ero stato visitato 3 giorni prima. C'era ancora da fare qualche applicazione prima che la mia cura all'ospedale maggiore fosse finita e mi avviai nella strada secondaria esercitandomi a non zoppicare. Un vecchio tagliava profili sotto un archivolto. Mi fermai a guardare. 2 ragazze stavano posando e lui tagliava i loro profili insieme, tagliuzzando svelto e guardandole col capo piegato da una parte. Le ragazze ridacchiavano. Mi mostrò i profili prima di incollarli sulla carta bianca e li tese alle ragazze. «Sono belli», disse. «E lei, tenente?» Le ragazze se ne andarono guardando i loro profili e ridendo. Avevano l'aria simpatica. Una lavorava nella bottiglieria di fronte all'ospedale. «Bene», dissi. «Si tolga il berretto?» «No, col berretto». «Non sarà tanto bella», disse il vecchio, «ma...» Si illuminò. «Sarà più militare». Tagliuzzò la carta nera, poi separò i 2 strati e incollò i profili su un cartoncino e me li tese. «Quant'è?» «Niente», agitò la mano. «Li ho fatti per regalarglieli». «Per favore», presi qualche moneta di rame. «Per piacere». «No, li ho fatti per piacere. Li regali alla sua ragazza». «Tante grazie fino alla prossima occasione. Spero di rivederti». Proseguì verso l'ospedale. C'era qualche lettera, una ufficiale e qualche altra. Dovevo avere 3 settimane di licenza di convalescenza e poi ritornare al fronte. Lessi tutto con cura. Ecco, la licenza di convalescenza incominciava dal 4 ottobre, quando era finita la mia cura. 3 settimane erano 21 giorni. Così faceva il 25 ottobre. Avvertii che sarei uscito e andai in un ristorante nella strada dell'ospedale a cenare e leggere a tavola le mie lettere e il Corriere della Sera. C'era una lettera del nonno con notizie della famiglia, incoraggiamenti patriottici, una tratta di $200 e qualche ritaglio di giornale, una lettera stupida del cappellano della mensa, una lettera di un tale che conoscevo che volava coi francesi e si era messo in un gruppo strambo e me lo raccontava. Un biglietto di Rinaldi che mi chiedeva quanto tempo avrei continuato a restare a Milano e che novità c'erano. Voleva che gli portassi dei dischi e mi accludeva un elenco. Bevi un fiaschetto di Chianti mentre mangiavo, poi presi un caffè con un bicchiere di cognac. Finii il giornale, mi misi le lettere in tasca e lasciai il giornale sul tavolo con la mancia e uscii. In camera mia, all'ospedale, mi spogliai, misi il pigiama e la vestaglia, abbassai le tende della finestra che dava sul balcone. e seduto sul letto lessi i giornali di Boston da un mucchio che Mrs. Meyers aveva lasciato all'ospedale per i suoi ragazzi. La Chicago White Sox stava vincendo la Coppa dell'American League e i New York Giants erano in testa alla National League. Il pitcher Babe Ruth giocava per Boston. I giornali erano stupidi, le notizie erano locali, rancide, e le notizie di guerra erano tutte vecchie. Le notizie americane erano tutte un campo di istruzione. Ero lieto di non essere in un campo di istruzione. Le notizie del baseball erano l'unica cosa che si potesse leggere e non mi interessavano minimamente. Molti giornali insieme tolgono la possibilità di leggere con interesse. Non erano molto recenti, ma ne lessi un po'. Mi chiesi se nel caso l'America entrasse davvero in guerra, avrebbero chiuso le leghe principali. Probabilmente no. A Milano facevano ancora le corse e la guerra non avrebbe potuto andare peggio. In Francia avevano sospeso le corse. Era di lì che veniva il nostro cavallo. Catherine non incominciava il suo turno fino alle 9. La udii passare quando entrò in servizio. Una volta la vidi passare in corridoio. Andò in parecchie altre stanze e finalmente entrò da me. «Sono in ritardo, caro», disse. «C'era tanto da fare. Come stai?» Le dissi dei giornali e della licenza. «Che bellezza», disse. «Dove vuoi andare?» «In nessun posto. Voglio restare qui». «Che sciocchezza. Scegli un posto e verrò anch'io». «Come farai?» «Non lo so, ma ci riuscirò». «Sei magnifica». «No, non è vero, ma non è difficile regolare la propria vita quando non c'è niente da perdere». «Che cosa vuoi dire?» «Niente, pensavo soltanto come sembrano piccoli gli ostacoli che una volta erano così grandi. Credevo che potesse essere difficile da organizzare». «No, caro. Se è necessario mi limiterò a partire, ma non si arriverà a questo». «Dove dobbiamo andare?» «Non importa, caro, dovunque tu voglia, dovunque non ci sia gente che ci conosce». «Non ti importa dove andiamo?» «No, mi piacerà qualunque posto». Pareva agitata e nervosa. «Che cosa c'è, Catherine?» «Niente, proprio niente». «Sì, c'è qualcosa». «No, niente, niente davvero. So che c'è qualcosa, dimmi, cara. Puoi dirmelo?» «Non ho niente». «Dimmi, non voglio, ho paura che diventerai infelice e preoccupato». «No, non sarà così». «Sicuro?» «Io non sono preoccupata, ma ho paura che ti preoccupi tu». «Non è possibile se non ti preoccupi tu». «No, non voglio dirtelo. Dimmi». «Devo proprio, sì». «Sto per avere un bimbo, caro. Sono quasi 3 mesi. Non sei preoccupato, vero? Ti prego. Ti prego, non devi preoccuparti». «Bene. È tutto a posto?» «Certo. Ho fatto di tutto. Ho preso di tutto, ma non è servito a niente. Non sono preoccupato. Non ho potuto farci niente, caro, e non mi sono preoccupata. Non devi preoccuparti o starci male. Sono preoccupato solo per te». «Appunto, è quello che non devi fare. La gente non fa altro che avere bambini. Tutti hanno bambini. È una cosa naturale». «Sei magnifica». «No, no, non è vero, ma non devi pensarci, caro. Cercherò di non darti noia. So che ti ho dato noia adesso, ma non sono stata una brava ragazza finora. Non te ne sei mai accorto, vero?» «No, sarà sempre così. Tu devi soltanto non preoccuparti. Lo vedo che sei preoccupato. Smetti, smetti subito. Vuoi bere qualcosa, caro? So che quando bevi diventi sempre allegro». «No, sono allegro». «E tu sei magnifica». «No, non è vero. Ma farò di tutto per stare con te se sceglierai un posto dove andare. Deve essere bello in ottobre. Ci divertiremo, caro. E ti scriverò ogni giorno quando sarai al fronte». «E tu dove sarai?» «Non lo so ancora. Ma in qualche posto splendido. Poi ci penserò». Restammo un momento zitti senza parlare. Catherine era seduta sul letto e io la guardavo, ma non ci toccammo. Eravamo divisi come quando entra qualcuno in una stanza e la gente diventa consapevole. Tese la mano e prese la mia. «Non sei in collera, vero, caro?» «No. E non ti senti preso in trappola?» «Forse un poco», dissi. «Ma non da te». «No, non volevo dire da me, non fare lo stupido. Volevo dire in trappola, in genere. Ci si sente sempre presi in trappola biologicamente». Rimase a lungo senza muoversi e senza spostare la mano. «Sempre non è una bella parola. Scusami». «Non importa. Ma vedi, non ho mai avuto bambini e non ho mai amato nessuna e ho cercato di essere come tu volevi. E poi tu dici sempre. Vorrei tagliarmi la lingua. Caro, ritornò dal mondo dove era stata. Non devi badarmi. Eravamo di nuovo insieme e la consapevolezza era scomparsa. Siamo davvero la stessa cosa e non dobbiamo fraintenderci di proposito. Non lo faremo. La gente lo fa, si amano e si fraintendono di proposito e bisticciano, poi d'improvviso non sono la stessa cosa. Noi non bisticceremo. Non dobbiamo farlo, perché ci siamo solo noi due e nel mondo ci sono tutti gli altri. Se succede qualcosa fra noi siamo finiti e vincono gli altri. Non vinceranno, dissi, perché tu sei coraggiosa. Non capita mai niente ai coraggiosi. Muoiono, naturalmente, ma una volta sola. Non lo so. Chi lo ha detto? Il codardo muore mille morti, il coraggioso una morte sola. Sì, chi l'ha detto? Non lo so. Probabilmente era un vigliacco, disse. Sapeva molte cose sui vigliacchi, ma non sapeva niente sui coraggiosi. Un coraggioso muore magari 2000 morti, se è intelligente. Si limita a non parlarne. Non lo so. È difficile vedere nella testa dei coraggiosi. Sì, è per questo che continuano a esserlo. Tu fai testo. Hai ragione, caro. Me lo sono meritata. Tu sei coraggiosa. No, disse. Ma vorrei esserlo. Io non lo sono, dissi. So quello che valgo. Ho vissuto abbastanza per saperlo. Sono come un giocatore di baseball che batte 230 e sa di non poter fare di più. Cos'è un giocatore di baseball che batte 230? È molto impressionante. No, non è vero. Significa un lanciatore mediocre nel baseball. Ma sempre un lanciatore, mi punzecchiò. Credo che siamo tutti e due presuntuosi, dissi. Ma tu sei coraggiosa. No, ma spero di diventarlo. Siamo tutti e due coraggiosi, dissi, e io sono coraggiosissimo quando ho bevuto. Siamo straordinari, disse Catherine. Andò all'armadio, mi portò il cognac e un bicchiere. Bevi, caro, disse. Sei stato così buono. Veramente non ne ho voglia. Prendine un po'. Va bene. Riempii di cognac un terzo del bicchiere dell'acqua e lo bevi. Era molto, disse. So che il cognac è per gli eroi, ma non dovresti esagerare. Dove andremo dopo la guerra? Probabilmente in un ospizio di poveri vecchi, disse. Per 3 anni ho aspettato molto puerilmente che la guerra finisse a Natale, ma ora aspetto che nostro figlio diventi colonnello. Forse diventerà generale. Se è una guerra dei 100 anni, avrà tempo di provare tutti e due i gradi. Non vuoi bere? No, a te fa bene, caro. Ti rende contento, ma a me fa solo girare la testa. Non hai mai bevuto cognac? No, caro. Sono una moglie molto l'antica. Mi chinai a raccogliere la bottiglia da terra e mi versai un altro bicchiere. È meglio che vada a dare un'occhiata ai tuoi compatrioti, disse Catherine. Potresti leggere il giornale finché ritorno. Devi andare? Adesso o dopo? Bene. Adesso. Torno tra poco. Avrò finito i giornali, dissi.